Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Dietro la notizia, le notizie di oggi, essenzialmente due, le buone notizie, almeno provvisoriamente, che vengono dai mercati, ma pensiamo, speriamo che si consolidino. Anche Tokyo oggi ha fatto registrare un balzo in avanti, le prospettive della crisi finanziaria potrebbero essere meno difficili di quanto si temeva, ma dobbiamo comunque tenere i nervi saldi. E sul fronte italiano sempre la scuola in primo piano, la scuola e l'università. Oggi parliamo proprio di scuola di università e ne parliamo con il professor Roberto Perotti. Buongiorno professor Perotti. Buongiorno. Roberto Perotti è docente di economia alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, ha scritto proprio oggi un articolo su Sole 24 Ore, fondi solo per i migliori. Mentre ricordo gli ascoltatori, il numero verde 824 0024, allora inizierei col professor Perotti chiedendogli, si parla di fondi, si è parlato molto in questi ultimi giorni dei tagli alla scuola, dei tagli all'istruzione, e allora vorrei chiedergli drasticamente: è un problema solo di fondi quello della scuola italiana? Professor Perotti. No, non è un problema solo di fondi, anzi non è un problema principalmente di fondi a mio avviso. Se si guarda la spesa per studente o per professore dell'università italiana, non è inferiore a quella della media dei migliori paesi europei, ma quello che sicuramente salta all'occhio è che la produzione scientifica dell'università italiana è inferiore a molti paesi europei. Il problema della spesa italiana nell'università è che è molto mal distribuita, si pagano pochissimo i giovani, si pagano moltissimo gli anziani, e tutto questo indipendentemente dalla capacità scientifica di un docente. Nessuna organizzazione può sopravvivere e prosperare a queste condizioni. Ecco, un suo libro proprio recentemente ha un titolo, L'università truccata, un libro che mette in luce come proprio all'interno delle facoltà non prevalga il merito, non prevalga la logica della promozione della ricerca e dell'istruzione in senso proprio, in senso assoluto, ma prevalgano altre logiche, quelle del clientelismo, quelle del nepotismo, quelle del favoritismo. È una malattia strutturale questa dell'università italiana, o è una malattia di comportamenti? Che cosa si può fare per affrontare questi temi? Professor Perotti. Che cosa si può fare? Bisogna partire dal principio che sono state tentate tutte le soluzioni possibili negli ultimi 50 anni e hanno sempre fallito. L'università italiana ha continuato a decadere e è sempre più clientelare, sempre più preda al familismo. Sono state tentate tutte le soluzioni tranne l'unica che può risolvere veramente la situazione, cioè dare soldi ai migliori dipartimenti, ai migliori individui, e toglierli dai dipartimenti, dagli individui che non fanno ricerca. Questa è l'unica soluzione possibile, perché automaticamente non sono più necessarie regole e regolette che vengono sistematicamente aggirate, ma semplicemente chi assume la propria cognata o il proprio zio si condanna all'estinzione. Ecco, forse dare soldi a chi fa buona ricerca può essere una soluzione che tutti condividono. Quello che, come scrive oggi, togliere senza pietà a chi fa cattiva ricerca e cattiva didattica, forse è un percorso più difficile, è un percorso ostacoli. Togliere soldi a qualcuno è sempre qualcosa che sembra un reato di lesa istruzione. Professor Perotti. Sì, però è l'altra faccia necessaria della stessa medaglia. Tra l'altro non sono neanche completamente d'accordo che siano tutti d'accordo nel dare più soldi a chi fa buona ricerca. Purtroppo in Italia c'è questa cultura dell'egualitarismo, soprattutto in un ambiente come la cultura e l'educazione, l'istruzione e la scienza, che molti pensano, a mio avviso erroneamente, che non debba venire, tra virgolette, mercificato. Sì, anche l'istruzione ovviamente è una merce, qualcosa che può essere comprata, che deve essere però valutata secondo proprio quel concetto di merito che c'è anche nella Costituzione, ma che è un merito che molto spesso viene messo in secondo piano. Ascolterei una telefonata, Flavia da Messina, buongiorno. Buongiorno, io non ho figli all'università, ma sono molto curiosa e attenta a quello che sta succedendo nel nostro paese in questi giorni. Innanzitutto volevo sapere cos'è una fondazione, Per quello che ho potuto capire, le fondazioni sono, cioè le università devono essere, potrebbero essere riconvertite in fondazioni, un po' come negli Stati Uniti. Cioè, noi non abbiamo né tante multinazionali, non abbiamo una mentalità anglosassone, e poi in tempi di recessione, quale azienda può sponsorizzare una università? E poi ho letto sull'Espresso un trafiletto che il 5 per 1000 destinato alla ricerca andrà alle banche per salvarle. Cioè, questo mi sembra veramente una grande ingiustizia e anche un po' uno scandalo, se mi è permesso il termine. Sì, ecco, su questo fronte non ho da dare notizie, quindi rispetto su questa possibilità appunto di intervento pubblico sulle banche ci sono tante ipotesi per ora, non c'è nessuna scelta di dove trovare i fondi, che peraltro sono fondi che non dovrebbero essere dei finanziamenti alle banche ma dei prestiti per aiutare le banche a superare la situazione. Ma sul tema invece delle fondazioni, sul tema delle fondazioni che potrebbero intervenire per cambiare un po' la formula giuridica attuale delle società, fondazioni che peraltro ha rappresentato, lo ricordo, negli anni scorsi, rappresentano ancora un caposaldo del sistema bancario italiano, che ha aiutato il sistema bancario italiano a uscire un po' da quella che era chiamata la foresta pietrificata e a trovare nuovi fondi e nuove risorse per competere, pur mantenendo attraverso le fondazioni dei legami con il territorio. Allora, professor Perotti, quello delle fondazioni può essere una strada per dare più autonomia, ma nell'efficienza all'università? Secondo me no, a mio avviso qui il governo ha fatto un grosso errore, perché ha proposto appunto di dare alle università la possibilità, non l'obbligo, ma la possibilità di trasformarsi in fondazioni, e per quel che si capisce lo scopo principale era quello di permettere ai privati di fare donazioni che fossero deducibili dalle tasse. E questo secondo me è un errore, perché intanto, prima di tutto, come diceva la signora, nessun privato, che sia in recessione, che sia in tempi di boom economico, sarebbe così pazzo da dare soldi alle università nello stato in cui sono attualmente, ma soprattutto perché, e qui non condivido la sua analisi delle fondazioni bancarie, secondo me l'esperienza delle fondazioni bancarie insegna che queste istituzioni semi pubbliche, semi private, nessuno capisce bene cosa siano, diventano delle grandi mangiatoie per i politici locali e notabili locali, e lo stesso sarebbe stato il caso per le fondazioni universitarie, con la differenza che nel campo università, mentre tutti più o meno possono gestire una banca di piccole dimensioni locali, nel campo dell'università farebbero dei disastri spaventosi, perché non tutti sanno come si gestisce la ricerca. Ma lei ha studiato molto, ha vissuto molto, ha fatto anche professore in America, il modello americano non è mutuabile in Italia? Ma lì semplicemente sono università private, non è una questione di essere fondazione o non fondazione, sono degli enti privati che si finanziano prevalentemente con le tasse studentesche. Chiaramente il modello universitario americano in termini di ricerca funziona, basta vedere quanti premi Nobel ci sono in America e quanti premi Nobel ci sono in Italia, però ho l'impressione che proporre in questo momento la privatizzazione dell'università in Italia sarebbe politicamente suicida, nessuno lo farebbe, ci sarebbero i morti nelle strade il giorno dopo. Grazie, oggi c'è lo sciopero della scuola, speriamo che tutto vada tranquillamente e che, come ogni protesta, si incanali nei canali democratici. Antonella da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo così dire che oggi andrò a lavorare, non farò sciopero, perché trovo che non sia giusto, cioè io sono molto delusa dall'apparato sindacale, di qualsiasi sigla esso sia, perché ha ridotto il corpo docente, io insegno in una scuola di secondo grado, allo stato proletario, cioè noi non abbiamo più nessun tipo di ruolo, di prestigio sociale, non veniamo rispettati dagli alunni, dai genitori, e ogni cosa appunto è sindacabile, e facciamo sempre più fatica nel nostro lavoro. Ancora una volta ci propongono una protesta per, come diceva il professore lì presente, egualitare, cioè portare tutti ad uno stesso trattamento, ad uno stesso livello. Io non sono d'accordo, perché purtroppo nella scuola pubblica, e questo mi dispiace tantissimo perché è un bene grandissimo la scuola pubblica e serve soprattutto a quelle persone che non hanno disponibilità economica, tanti miei colleghi la trattano male, cioè non vengono a scuola, non lavorano, non si presentano, fanno altro, hanno altri lavori e in più sono in ruolo. Ecco, io davanti a queste cose sono esterrefatta, perché vorrei tanto che ci fosse in futuro anche una riforma che si occupi di questo, cioè chi vuole insegnare insegni e basta, cioè faccia questo lavoro e lo faccia bene, al meglio, proprio perché gli studenti hanno diritto a questo. Io vorrei vedere tanti studenti in piazza protestare per questo, non tanto perché vengono tirati per la giacca da questo o quel movimento sindacale o partitico, ma per queste cose molto concrete che purtroppo nella scuola, mi piange il cuore dirlo, guardi, ma si vedono tutti. La ringrazio molto, la ringrazio di questo appello. Allora, professor Perotti, è così difficile far passare il metodo del merito anche dalla parte dei docenti in ogni ordine di scuola, oltre che verso gli allievi, per i quali forse c'è una politica negli ultimi tempi più dell'appiattimento che del merito? Sì, io posso parlare prevalentemente per l'università e diciamo che non mi stupisce particolarmente che molti docenti, non tutti ovviamente, ma molti docenti siano contro qualsiasi principio meritocratico, in particolare di dare più soldi all'università e agli individui migliori, perché ovviamente l'università è in questo stato perché molti docenti sono nati e cresciuti accademicamente in un sistema clientelare nepotistico e ne hanno beneficiato alla grande. Quello che lascia un po' più perplessi, come diceva la signora, è che gli studenti si siano prestati a questo gioco e siano di fatto dalla parte dei conservatori più biechi. Perché gli studenti purtroppo non hanno mai manifestato contro i casi più eclatanti di familismo o nepotismo, non hanno mai fatto proposte concrete per introdurre finalmente il merito, non solo a parole ma nei fatti, nell'università, e anzi sappiamo che si opporrebbero all'unica soluzione possibile, come diceva, quella di togliere i soldi alle università peggiori. Grazie professor Perotti, ti chiedo un attimo di pazienza anche agli ascoltatori che sono in linea, ci sentiamo tra pochi secondi dopo il traffico. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati per quest'ultima parte di Dietro la notizia. Abbiamo con noi Roberto Perotti, docente di economia alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, autore del libro L'Università Truccata. Abbiamo in linea Raffaele da Modena, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Dunque, io sono un docente di scuola superiore, ex ricercatore. Volevo dire questo, il motivo per cui oggi sciopero è soprattutto i 130.000 posti che si perderanno tra docente e ATA. Nella riforma, secondo me, c'è molto di buono. Voler reintrodurre la meritocrazia, tanto nella scuola quanto nell'università, non può essere che apprezzabile. Detto questo, però io vedo come un'emergenza nazionale il fatto che 130.000 tra docente e ATA il prossimo anno non troveranno il loro posto di lavoro perché precari, e magari sono precari che hanno lavorato per 10 anni o 5 anni già nella pubblica amministrazione. Non è colpa loro se sono precari, cioè nessuna azienda privata si può permettere il lusso di tenere 10 anni o 5 anni una persona al lavoro. Però lo Stato si è potuto permettere questo lusso e ora, senza spendere due parole, si parla di tutto, si parla del grembiulino, del vuoto in condotta, non si parla di 130.000 persone che non troveranno il loro posto di lavoro a settembre. Ecco, grazie, mi sembra che sia chiara la domanda. C'è un problema di posti di lavoro, queste riforme rischiano di ridurre i posti di lavoro, ma il problema secondo me è anche quello che i posti di lavoro dovrebbero essere efficienti, il sistema dovrebbe essere efficiente e creare posti di lavoro veri, no? Posti di lavoro finanziati dallo Stato. Sappiamo come sono finiti i regimi in cui i posti di lavoro erano finanziati dallo Stato. Roberto Perotti. Sì, no, il problema esiste, è difficile ignorarlo, non sarebbe giusto ignorarlo. Gli 87.000 docenti da scuola primaria e secondaria, che questa cifra di 87.000 docenti che verrebbero licenziati, gira da parecchi mesi, in realtà non è mai stata chiarita e non avverrebbe tutto in un anno, sembra, ma avverrebbe su diversi anni. E la mia impressione è che a regime siano molto meno di 87.000, anche perché finora non si sa esattamente cosa succederà al tempo pieno. E tra l'altro, appunto, in molti casi sono mancate assunzioni più che licenziamenti, anche peraltro nella pubblica amministrazione non possono avvenire. Quindi ho la mia impressione che la cifra finale sarà molto inferiore a questa, però sicuramente il problema esiste e ognuno qui ha la sua opinione, se è un male necessario si poteva evitare. Grazie professor Perotti. Intanto anche di fianco alla sede di Radio 24 sta passando un corteo di protesta in ambito dello sciopero della scuola. Sentiamo Giancarlo da Milano, magari bloccato nel traffico per i cortei di protesta. Buongiorno. No, ma sì, buongiorno. No, non sono bloccato nel traffico, sono fermo a bordo strada, per cui sono da questo punto di vista tranquillo. Ci dica. Buongiorno e grazie dello spazio. Io volevo solo dire questo. Volevo che il suo ospite chiarisse, perché ci sono notizie contraddittorie. Allora, la scuola primaria è riconosciuta o no come una scuola a livello di eccellenza nella nostra scuola, soprattutto quella elementare? E se è così, come mi sembra di aver capito, andiamo a tagliare una cosa che funziona, no? Per quello che riguarda invece i fondi universitari, i tagli universitari, io ho due figli e tutte e due hanno fatto università, anzi una la sta ancora facendo, e la retta universitaria che io pago è calcolata su tutta una serie di cose che non sto a elencare, ma che lei conosce benissimo, no? E per fare il calcolo della tassa universitaria bisogna portare perfino l'estratto conto bancario, eccetera. Io sono un pensionato e per quello che riguarda la mia aliquota di tassa universitaria sono un ricco, perché mia figlia mi dice, e anche i miei amici me lo confermano, moltissime persone pagano la prima rata e non pagano quasi niente della seconda. A questo punto io mi domando, ma possibile che non ci siano controlli per recuperare anche da lì dei quattrini che sicuramente sarebbero tantissimi? Ecco, la ringrazio, la prego di fermarsi qui, se ha già fatto due domande. Sulla prima, ecco, posso dire rapidamente, non ho le statistiche sotto mano, ma le statistiche internazionali mettono comunque la scuola italiana non certo ai primi posti nell'ambito europeo, e questo in ogni ordine di scuola, anche della scuola primaria. Ma lascerei la parola a Roberto Perotti, prego. Sì, questo è vero, però sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che forse partire dalla scuola primaria è stato un errore, perché è vero che la scuola primaria nelle statistiche internazionali, soprattutto per quanto riguarda la lettura e la comprensione della lettura, è in buona posizione, mentre per la matematica non è tanto in buona posizione rispetto agli altri paesi, però nel suo complesso ho l'impressione che dai dati internazionali risulti che la scuola elementare di tutte le scuole italiane, di tutti gli ordini delle scuole italiane, sia quella che ancora funzionava meglio, e questa è l'impressione anche che ha la gente per le strade, insomma. Quindi ho l'impressione che essere partiti da lì, forse l'istituzione pubblica italiana che ancora funzionava meglio fra tutte, sia stato un errore strategico. Ecco, una battuta sulle tasse universitarie, siamo in chiusura, Perotti. Sì, io non so i dettagli dell'evasione delle tasse di cui parlava il signore, quindi non conosco questi dettagli, però è vero che in generale l'università italiana è fra il più buon mercato del mondo. E questo secondo me è un errore, perché di fatto all'università ci vanno soprattutto i ricchi, con eccezione ovviamente, ma in media ci vanno soprattutto i ricchi, però sono di fatto pagate dalle tasse di tutti, inclusi i poveri, quindi è una forma di ridistribuzione in contrario che non ha ragione di esistere, e soprattutto se si facesse pagare di più il costo università a chi se lo può permettere, sarebbe un altro modo per mettere i docenti con le spalle al muro, perché a questo punto se si comportano male, non insegnano bene, non fanno buona ricerca, i studenti vanno a un altro ateneo e quindi tolgono il terreno sotto i piedi dai docenti ignoranti o fannulloni. Magari con un sistema di borse di studio che possa intervenire appunto per permettere ai capaci e meritevoli, come dice la Costituzione, di frequentare anche le università più care, come avviene negli Stati Uniti e come il professor Perotti ricorda nell'articolo di oggi sul Sole 24 Ore. Professor Perotti, docente della Bocconi, che ringrazio per essere stato con noi, così come ringrazio gli ascoltatori e Filippo Reggi in regia. L'appuntamento è per domani.